Parliamo di servizi pubblici, o forse sarebbe il caso di dire di servizi e basta, perché c'è il DDL concorrenza che crea non pochi problemi per appunto la gestione pubblica dei servizi pubblici come acqua e trasporti. Ne parliamo con Detyon Begay, consigliere comunale di Coalizione Civica, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. Allora, tu e diciamo tutto il gruppo di Coalizione Civica siete intervenuti anche in consiglio comunale proprio su questo tema per sollevare il problema creato da un articolo del DDL concorrenza. Sì, in particolare l'articolo 6 di questo disegno di legge prevede dei dispositivi molto stringenti per gli enti locali che decidono di utilizzare le cosiddette società in house e quindi avere un controllo totalmente pubblico dei servizi pubblici essenziali. Questa norma prevede in particolare che il servizio pubblico locale deve produrre una motivazione anticipata e qualificata che dà conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato. Questa motivazione non solo deve essere preventiva ed essere sottoposta all'autorità garante della concorrenza e del mercato, ma periodicamente ci deve essere addirittura un sistema di monitoraggio di questa motivazione in qualche modo, quindi questa motivazione anche ex post deve essere mantenuta e giustificata. Cioè il pubblico si deve giustificare se non vuole affidare ai privati un servizio. Esatto. La norma prevede questo. In più si chiede un sistema di monitoraggio dei costi, quando invece per quanto riguarda i privati è sufficiente invece un piano economico motivato sostanzialmente. Quindi sono due discipline molto diverse, capite bene che le norme per il pubblico sono molto più stringenti rispetto alle società private. Tutto questo appunto pone un problema innanzitutto di competenze tra lo Stato e gli enti locali. In più naturalmente crea molti problemi non solo per i comuni che intendono nel futuro ad esempio ripubblicizzare il servizio idrico, ma anche per quanto riguarda le società già in essere, chiaramente pone dei vincoli. In questa fase in Emilia Romagna stiamo vedendo che ad esempio solamente una settimana fa Modena ha affidato di nuovo ad ERA per 18 anni il servizio idrico. Per quanto riguarda il comune di Bologna, quindi l'area, non solo il comune di Bologna, c'è un impegno politico della coalizione che si è candidata al governo della città e che esprime la maggioranza di approfondire lo studio di fattibilità di Atersir, quindi l'agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti. Questo studio di fattibilità è fatto assieme all'Università di Bologna, è appena cominciato di fatto, ci vorrà qualche mese per capire un po' quali saranno gli orientamenti. Sta di fatto che l'articolo 6 del DDL concorrenza, se venisse approvato così com'è, di fatto chiuderebbe molte porte, ecco, cioè chiuderebbe anche solo di fatto l'idea di poter cambiare rotta e quindi poi anche rispettare l'esito del referendum del 2011, che sappiamo tutti che non è stato rispettato dal legislatore nazionale e da tanti enti locali. Certo, ecco, quanto c'è di tecnico e quanto invece di ideologico in questa norma del DDL concorrenza? Perché, insomma, sembra un po' ripercorrere l'idea che il privato è più efficiente e più economico. Sì, assolutamente. Beh, questo diciamo che il governo Draghi spinge molto sulle privatizzazioni, ma lo sappiamo perché Draghi lo conosciamo bene, è stato lui che nel 2011, proprio dopo i referendum italiani, ha mandato la famosa lettera assieme al governo Berlusconi dove si chiedeva di fatto l'apertura di una stagione di privatizzazioni, quindi questa spinta diciamo che sta tornando con vigore. Il DDL concorrenza nel suo complesso recepisce anche delle normative europee a onor del vero, quindi non è esattamente tutto da buttare. Ad esempio c'è il tema molto conflittuale sugli affidamenti delle aree demaniali come le spiagge, i servizi di trasporti, i taxi, tutte queste cose qui che sono ancora oggetto di trattativa e di un'alta conflittualità, però ci sono anche alcuni dispositivi che possiamo anche ragionare in termini positivi. L'articolo 6 è sicuramente l'espressione peggiore di questa ideologia ultraliberale, quando, come io stesso ho sottolineato in consiglio, per quanto riguarda in particolare il servizio idrico, noi sappiamo bene che con questa crisi climatica ci stiamo affacciando a una fase storica dove ci saranno crisi idriche e quindi il fatto che i comuni, un comune come Bologna, abbia espresso una volontà perlomeno di tenere aperta una strada nei confronti del legislatore nazionale, io credo che sia un segnale molto importante. Sottolineo che quest'ordine del giorno è stato proposto dalla rete Attacchi Italia e il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. L'ordine del giorno ovviamente è stato riadattato e quindi non è esattamente ovviamente quello che è stato proposto dalla rete Attacca Italia, però abbiamo preso le mosse da questa proposta. So che in diversi comuni in Italia è stato presentato questo ordine del giorno, vedremo tra due settimane quanti comuni l'avranno approvato, ognuno a suo modo, perché suppongo che poi i testi saranno anche adattati e diversi da comune a comune. Però io credo che se gli enti locali riescono a dare questo segnale molto positivo, l'ordine del giorno è un dispositivo che impegna la giunta e il sindaco ad inoltrare questo atto alla presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi è positivo che non invita ma impegna, quindi ha un dispositivo forte da questo punto di vista. Vediamo che effetti avrà. Certo, staremo a vedere. Io intanto ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao. A presto, ciao.